Ciao ragazze! Ciao! Dai, vabbè, iniziamo! Buonasera, buonasera, eccoci qua, no, sì, eccoci, scusate, sì, ok, mi si sente perfetto, scusate, qui Addu, qui con voi, Radio Wombat, oggi lunedì 8 dicembre, che giornata strana per trasmettere, mi hanno detto in tanti e tanti, io non la penso così, infatti sono qua, vabbè, sì, sarà pure un giorno di festa, ma insomma, festeggiamo con nervature, mi sono detta, perché no? Allora, quindi eccoci qua in una nuova puntata. Mi scuso che la scorsa settimana ho paccato, ho paccato proprio in modo abbastanza triste, devo dire, mi dispiace. Però oggi siamo di nuovo qui e ho un po' di informazioni da darvi, ovvero che trasmetto oggi, trasmetto la prossima puntata. Cioè settimana, scusate, e poi però c'è una piccola pausetta natalizia, diciamo, per così dire, per cui non mi sentirete per 2 o 3 settimane, ancora non so di preciso, no, 3 sicuramente direi, almeno 3, e quindi poi ci risentiamo a metà gennaio, quindi Nervature va un pochino in pausa, però mi adopererò per mandarvi delle repliche, che abbiano un senso magari, non so, qualcosa che reputo che possa aver senso risentire, farvi risentire in questo periodo. E intanto però eccoci qua oggi. Allora, cosa vi propongo oggi in questo lunedì freddissimo, mamma mia, in questa regia freddissima soprattutto? Oggi si inizia un audiolibro che sarà brevissimo, proprio mai fatto un audiolibro così breve, addirittura... Vi dico che potrei quasi farlo in un'unica puntata, in realtà, però lo dividerò in 2 perché mi sembra più carino non svelare tutto subito, per così dire. E è un libro molto conosciuto, in realtà, forse può darsi anche che l'abbiate già letto, molto breve, come avete capito, ed è L'uomo che piantava gli alberi di Jean Giono. Jean Giono, non so bene come si debba pronunciare. Però ovviamente non iniziamo subito così a bomba, mi sembrerebbe un po' violento, per cui direi di partire subito con un bel po' di musica. E la musica che vi propongo oggi è un bel dabbettone, ma non solo dab, anche jazz. E infatti quest'album, il cui artista è Gaudí, si chiama proprio Jazz Gone Dub, quindi il jazz che ormai è diventato dub, sì. È andata così. Thank you. E quindi eccoci di nuovo qua su Radio Wombat, su Nervature, la trasmissione che vi parla di piante, giardinaggio, botanica, biologia, dipende un po' dalle volte e a volte vi legge dei libri come oggi. Allora, direi un attimo, prima di iniziare, diamo un attimo di contatti alla radio. La Radio Wombat è la radio libera e autogestita di Firenze, ci trovate in AM sulle 13.59 nell'area fiorentina e per rispondere a un messaggio sul pad, per ascoltare l'AM serve una radio apposta che riesca a intercettare quel tipo di segnale, quindi quelle onde lì, che non è l'FM, è l'AM, appunto, è un'altra tecnologia. Alcune radio delle macchine vecchie ancora ce l'hanno, però sicuramente le macchine nuove non più, altrimenti le radioline un po' da cucina, insomma, quelle ancora ce l'hanno, o comunque si trovano ancora ovviamente da comprare, magari da internet, radioline del genere. Però la brutta notizia è che in questo momento non stiamo trasmettendo in AM perché vari problemini tecnici, diciamo, quindi è un attimino in pausa, forse è per questo infatti che l'ascoltatore o l'ascoltatrice aveva avuto dei problemi, non so. In ogni caso ci potete anche ascoltare, come sicuramente state facendo adesso, anche in streaming, e lo fate dal sito radiowombat.net, sito il quale vi consiglio di spulciare per tutti i podcast che trovate e altre informazioni varie, svariate ed eventuali. Infine vi ricorderei appunto il PAD, che è lo strumento di testo che noi utilizziamo per chiacchierare con voi in diretta e non, come avete visto, e il link è direttawombat.vado.li. Mi raccomando, non esitate a scriverci, basta che aprite e scrivete, io lo vedo in diretta, vi posso rispondere ora, altrimenti se scrivete in un altro momento vi posso comunque rispondere altre volte io o altre persone. Allora iniziamo con questo audiolibro di oggi, che appunto inizia oggi e si concluderà la puntata successiva, la puntata prossima. Questo è L'uomo che piantava gli alberi di Jean Genet, libro scritto, scusate, nel 1953, ma è stato pubblicato per la prima volta nel 73, quindi 20 anni dopo. La versione, vabbè, diciamo l'edizione che vi leggo io, che ho adesso in mano, è quella di Salani Editore, e lo cito giusto perché all'interno contiene una serie di disegni molto molto carini, molto piacevoli, diciamo che sono veramente un buon accompagnamento alla lettura. Chiaramente questi non posso condividerli con voi adesso, ma almeno lo sapete, magari ve lo spulciate in biblioteca. Thank you. perché la personalità di un uomo riveli qualità veramente eccezionali, bisogna avere la fortuna di poter osservare la sua azione nel corso di lunghi anni. Se tale azione è priva di ogni egoismo, se l'idea che la dirige è di una generosità senza pari, se con assoluta certezza non ha mai ricercato alcuna ricompensa e per di più ha lasciato sul mondo tracce visibili, beh, ci troviamo allora, senza rischio d'errore, di fronte a una personalità indimenticabile. Una quarantina circa di anni fa stavo facendo una lunga camminata tra cime assolutamente sconosciute ai turisti in quell'antica regione delle Alpi che penetra in Provenza. Questa regione, delimitata a sud-est e a sud, è a sud dal corso medio della Durance tra Sisteron e Mirabeau, a nord dal corso superiore della Drôme, dalla sorgente sino a D, a ovest dalla pianura del Contat Venaissin e i contrafforti del Monte Ventoux. Essa comprende tutta la parte settentrionale del dipartimento delle Basse Alpi, il sud della Drôme e una piccola enclave della Val Chiusa. Si trattava, quando intrapresi la mia lunga passeggiata in quel deserto, di lande nude e monotone tra i 1200 e i 1300 metri di altitudine. L'unica vegetazione che vi cresceva era la lavanda selvatica. Attraversavo la regione per la sua massima larghezza e dopo 3 giorni di marcia mi trovo in mezzo a una desolazione senza pari. Mi accampai di fianco a uno scheletro di un villaggio abbandonato. Non avevo più acqua dal giorno prima e avevo necessità di trovarne. Quell'agglomerato di case, benché in rovina, simile a un vecchio alveare, mi fece pensare che dovevano esserci stati una volta una fonte o un pozzo. C'era difatti una fonte, ma secca. Le 5 o 6 case senza tetto, corrose dal vento e dalla pioggia, e la piccola cappella col campanile crollato, erano disposte come le case e le cappelle dei villaggi abitati. Ma la vita era scomparsa. Era una bella giornata di giugno, molto assolata, ma su quelle terre senza riparo e alte nel cielo, il vento soffiava con brutalità insopportabile. I suoi ruggiti nelle carcasse delle case erano quelli di una belva molestata durante il pasto. Dovetti riprendere la marcia. 5 ore più tardi non avevo ancora trovato acqua e nulla mi dava speranza di trovarne. Dappertutto la stessa aridità, le stesse erbacce legnose. Mi parve di scorgere in lontananza una piccola sagoma nera in piedi. La presi per il tronco di un albero solitario. A ogni modo però mi avvicinai. Era un pastore. Una trentina di pecore sdraiate sulla terra cocente si riposavano intorno a lui. Mi fece bere dalla sua borraccia e poco più tardi mi portò nel suo ovile, in una ondulazione del pianoro. Tirava sull'acqua ottima da un foro naturale molto profondo, al di sopra del quale aveva installato un rudimentale verricello. L'uomo parlava poco, com'è nella natura dei solitari, ma lo si sentiva sicuro di sé e confidente in quella sicurezza. Era una presenza insolita in quella regione spogliata di tutto. non abitava in una capanna, ma in una vera e propria casa di pietra. Ed era evidente come il suo lavoro personale avesse avesse rappezzato la rovina che aveva trovato al suo arrivo. Il tetto era solido e stagno, il vento che lo batteva faceva sulle tegole il rumore del mare sulla spiaggia. La casa era in ordine, i piatti lavati, il pavimento di legno spazzato, il fucile ingrassato. La minestra bolliva sul fuoco. Notai anche che l'uomo era rasato di fresco, che tutti i suoi bottoni erano solidamente cuciti, che i suoi vestiti erano rammendati con la cura minuziosa che rende i rammendi invisibili. Divise con me la minestra e quando gli offrii la borsa del tabacco mi rispose che non fumava. Il suo cane, silenzioso come lui, era affettuoso senza bassezza. Era rimasto subito inteso che avrei passato la notte da lui. Il villaggio più vicino era più di un giorno e mezzo di cammino. E oltretutto conoscevo perfettamente il carattere dei rari villaggi di quella regione. Ce ne sono 4 o 5 sparsi lontani gli uni dagli altri sulle pendici di quelle cime, nei boschi di querce al fondo estremo delle strade carrozzabili. Sono abitati da boscaioli che producono carbone di legno. Sono posti dove si vive male. Le famiglie, serrate l'una contro l'altra in quel clima di una durezza eccessiva, d'estate come d'inverno, esasperano il proprio egoismo sottovuoto. L'ambizione irragionevole si sviluppa senza misura nel desiderio di sfuggire a quei luoghi. Gli uomini portano il carbone in città con i camion, poi tornano. Le più solide qualità scricchiolano sotto quella perpetua doccia di scozzese. Le donne covano rancori. C'è concorrenza su tutto, per la vendita del carbone come per il banco di chiesa, per le virtù che lottano tra di loro, per i vizi che lottano tra di loro e per il miscuglio generale dei vizi e delle virtù senza posa. Per sovrappiù, il vento altrettanto senza posa irrita i nervi. Ci sono epidemie di suicidi e numerosi casi di follia, quasi sempre assassina. Il pastore che non fumava prese un sacco e rovesciò sul tavolo un mucchio di ghiande. Si mise a esaminarle l'una dopo l'altra con grande attenzione, separando le buone dalle guaste. Io fumavo la pipa. Gli proposi di aiutarlo. Mi rispose che era affar suo. In effetti, vista la cura che metteva in quel lavoro, io non insistetti. Fu tutta la nostra conversazione. Quando ebbe messo dalla parte delle buone un mucchio abbastanza grosso di ghiande, le divise in mucchietti da 10. Così facendo eliminò ancora i frutti piccoli o quelli leggermente screpolati, poiché li esaminava molto da vicino. Quando infine ebbe davanti a sé 100 ghiande perfette, si fermò e andammo a dormire. La società di quell'uomo dava pace. Gli domandai l'indomani il permesso di riposarmi per l'intera giornata da lui. Lo trovò del tutto naturale e più esattamente mi diede l'impressione che nulla potesse disturbarlo. Quel riposo non mi era affatto necessario, ma ero intrigato e ne volevo sapere di più. Il pastore fece uscire il suo gregge e lo portò al pascolo. Prima di uscire, bagnò in un secchio d'acqua il sacco in cui aveva messo le ghiande meticolosamente scelte e contate. Notai che in guisa di bastone portava un'asta di ferro dalla grossezza di un pollice e lunga 1,5 metri. Feci mostra di voler fare una passeggiata di riposo e seguì una strada parallela alla sua. Il pascolo delle bestie era in un avvallamento. Lasciò il piccolo gregge in guardia al cane e salì verso di me. Temetti che venisse per rimproverarmi della mia indiscrezione, ma niente affatto. Quella era la strada che doveva fare e mi invitò a accompagnarlo se non avevo di meglio da fare. Andava a 200 metri da lì, più a monte. Arrivato dove desiderava, cominciò a piantare la sua asta di ferro in terra. Faceva così un buco nel quale depositava una ghianda. Dopodiché, turava di nuovo il buco. Piantava querce. Gli domandai se quella terra gli apparteneva. Mi rispose di no. Ma sapeva di chi era? No, non lo sapeva. Supponeva che fosse una terra comunale, o forse proprietà di gente che non se ne curava? Non gli interessava conoscerne i proprietari. Piantò così le 100 ghiande con estrema cura. Thank you. Quindi così io vi lascio completamente sulle spine, sulle ghiande, anzi sui germogli di quercia, perché come vi dicevo vorrei spezzare in due il racconto, anche se è brevissimo, anche se è minuscolo, avrei completamente potuto leggervelo tutto oggi, invece no, vi faccio questo dispetto, per cui ci interrompiamo e continuiamo la prossima volta. Infatti, allora, a questo punto, per questo, diciamo, cambio di registro, cambio di argomento, vi metterei un pezzo che magari almeno spezza un po', appunto, e anche se questo da Bettone comunque, cioè, coinvolge, devo dire, poi è anche piuttosto originale, appunto, come tipologia, diciamo, di dub. Allora, adesso vi manderei quindi un altro pezzettone che non c'entra quasi niente, ma comunque ci sta. Questa è Didn't You Know di Erykah Badu. Thank you. Ed eccoci allora che si rientra in voce e sì, vi lascio davvero sulle spine. Vabbè, lo continuiamo, lo finiamo in breve la prossima settimana, questo raccontino, l'uomo che piantava gli alberi. Intanto vi ricordo il pad, il link è diretto a wombat.vado.li. Quindi in caso vogliate scriverci, scrivermi qui in diretta e fatelo e vi posso rispondere appunto a voce. Allora, adesso che cosa ho preparato per voi per questa seconda parte di puntata? Sempre una lettura, però di tutt'altro tipo, tutt'altro stampo. E si tratta di un articolo che ho preso dal blog di Picaia. Altre volte già ho letto appunto articoli di questo blog. È un blog di divulgazione scientifica che tratta tendenzialmente il tema dell'evoluzione, quindi di base questo. E quindi, in quanto tratta questo tema, come vi potete immaginare, molto molto spesso gli articoli o comunque le news girano intorno alla figura di Darwin, il quale veramente è proprio un personaggione, nel senso che ogni volta che leggo qualcosa in più riguardo a lui dico: ma certo, ha fatto anche questa, boia, ha studiato anche questa, wow, e anche questa, e questa, e questa. Insomma, era proprio un personaggione. E infatti, di cosa parliamo oggi? Di uno dei tantissimi studi, appunto, del nostro caro Charles, che riguarda, attenzione, i lombrichi. Forse non ve l'aspettavate, magari non ci avevate pensato a proprio studiarli a casa vostra, ma si può fare. Darwin è ricordato soprattutto per aver trasformato la nostra comprensione dell'evoluzione, ma la sua ultima opera scientifica fu dedicata invece a una delle creature più sottovalutate del pianeta, ovvero il lombrico. Nel weekend del 25 e 26 ottobre 2025 la Casa Museo di Down House ha celebrato questo insospettabile protagonista della natura con il Worm Weekend, realizzato in collaborazione con la Earth Worm Society of Britain. Io non ci potevo credere esistesse, ma Earth Worm Society of Britain, cioè società inglese dei lombrichi. Sì, non so bene cosa faccia, ma forse dovrei approfondire. Comunque, questo weekend consisteva in visite guidate, esperimenti dal vivo e attività per famiglie. Tutto ciò ha permesso ai visitatori di scoprire il mondo nascosto sotto i loro piedi e di capire perché per Darwin persino un lombrico potesse essere un protagonista della storia naturale. Pubblicato nel 1881, pochi mesi prima della sua morte, The Formation of Vegetable Mold Through the Action of Worms with Observations on Their Habits, quindi traduciamo la formazione del suolo vegetale attraverso l'azione dei lombrichi, con oltretutto un'osservazione delle loro attività, insomma. Quindi questo libro qua racchiude oltre 40 anni di osservazioni e si rivelò un successo immediato, vendendo addirittura più copie nelle prime settimane dell'origine delle specie. In Italia l'opera uscì nel 1882 per Utet, con il titolo La formazione della terra vegetale per l'azione dei lombrichi. In quel libro Darwin dimostrò che anche gli organismi più umili possono avere un impatto profondo sulla storia della terra. Con il suo approccio paziente e sperimentale, pose le basi di quella che oggi chiamiamo biologia del suolo, aprendo la strada a una nuova visione della natura come rete di relazioni invisibili ma essenziali. Di famiglia è un mistero antico. L'interesse di Darwin per i lombrichi nacque anni prima di Downhouse. Nel 1837, l'anno successivo al rientro dal Beagle, Charles iniziò a interrogarsi sul ruolo dei lombrichi nel modellare il suolo a Maer Hall, ovvero la tenuta dello zio Josiah Wedgwood, dove osservò come foglie e terra venissero lentamente trascinate nei cunicoli. Stimolato da queste prime osservazioni, Darwin presentò a Londra un contributo scientifico sull'argomento, un breve articolo letto alla Geological Society, che col tempo sarebbe maturato in una grande intuizione sulle leggi immutabili della natura. Lo studio dei lombrichi si intensificò in seguito a Downhouse, trasformandosi in un vero e proprio affare di famiglia. Quella che era iniziata come una curiosità personale divenne un progetto collettivo e il giardino si trasformò in un laboratorio di ricerca all'aria aperta. I figli parteciparono attivamente. Francis e Horace lo supportarono nel misurare con precisione l'affondamento di pietre e oggetti nel terreno, causato dall'attività dei lombrichi. William, il primogenito, estese persino il campo d'indagine al celebre sito di Stonehenge, documentando gli effetti di questo processo sui monumentali megaliti preistorici. Nel giugno del 1877, anche Charles, insieme alla moglie Emma e al figlio George, si recò personalmente a Stonehenge per verificare sul campo la profondità dello strato di vegetable mold intorno alle pietre. Un viaggio faticoso, ma a cui era determinato, principalmente per i lombrichi, come Emma notò in una lettera alla figlia. Fu proprio osservando Stonehenge che Darwin comprese appieno la portata del lavoro di questi piccoli ingegneri del suolo. Le enormi pietre sprofondavano non per misteriosi fenomeni geologici, ma per il lento, costante e incessante operare dei lombrichi. Questa intuizione, che attribuiva la trasformazione del paesaggio a cause naturali e graduali anziché a interventi divini, affascinò anche il vicino e amico di famiglia Sir John Lubbock, scienziato, banchiere e futuro promotore dell'archeologia preistorica, che vide in questi studi un perfetto punto d'incontro tra biologia, geologia e la comprensione della storia umana. La Worm Stone, l'esperimento più longevo di Downhouse. Tra gli esperimenti più affascinanti e duraturi condotti da Darwin a Downhouse vi è la celebre Worm Stone. Ideato con il contributo del figlio Horace, mirava a misurare con precisione la velocità con cui la pietra sarebbe sprofondata a causa della loro attività. L'esperimento consisteva nel posare una macina di pietra sul suolo e inserire delle barre metalliche attraverso il foro centrale fino a raggiungere la roccia sottostante, quindi la roccia nel suolo che sta profonda e che non si muoverà sicuramente, quindi fino a raggiungere quella roccia lì. Nel tempo si misurava l'abbassamento della pietra rispetto all'estremità superiore delle barre, che rimanevano immobili, cioè quanto la pietra sprofondava per effetto del continuo rimescolamento della terra. Charles e Horace utilizzavano un dispositivo di misurazione appositamente progettato, oggi esposto nella casa, per registrare a intervalli regolari l'accumulo dei depositi di terra, ovvero chiamato worm casting, e il progressivo sprofondamento della pietra. Quella che era nata come una semplice curiosità si trasformò in un impegno meticoloso protratto per decenni. Horace proseguì le rilevazioni per 17 anni anche dopo la morte del padre, calcolando che la pietra affondava in media di circa 2 mm all'anno. L'esperimento dimostrò in modo semplice e visibile un risultato sorprendente. I lombrichi, portando continuamente terra in superficie, sono capaci di seppellire oggetti pesanti nel tempo. La Worm Stone si trova ancora nel giardino di Downhouse e continua a mostrare ai visitatori l'impatto profondo e spesso invisibile che queste piccole creature esercitano nel modellare il paesaggio. L'eredità scientifica degli esperimenti di Darwin continua ancora oggi nei prati di Downhouse. Tra gli ospiti del Worm Weekend era presente il prof Kevin Booth dell'Università del Central Lancashire, uno dei massimi esperti mondiali di lombrichi, che da quasi 20 anni conduce ricerche proprio sul fenomeno osservato da Darwin, l'interramento graduale di pietre nel terreno per azione appunto dei lombrichi. Nel prato dietro la casa di Darwin, il Great Parklands Meadow, Booth ha ricostruito l'esperimento utilizzando selci, ovvero flints, di diverse dimensioni per misurare nel lungo periodo la velocità con cui il suolo, diciamo, inghiotte oggetti pesanti, confermando proprio l'intuizione darwiniana. I suoi studi mostrano come la capacità dei lombrichi di spostare terra vari a seconda della specie e della struttura del suolo, offrendo oggi un contributo prezioso per l'ecologia, per la gestione dei suoli e persino l'archeologia del paesaggio. Esperimenti e intelligenza sottoterra. Darwin non si limitò a descrivere l'attività dei lombrichi, ma cercò di capire fino a che punto operassero consapevolmente e quale fosse il grado di facoltà mentali da essi dimostrato, poiché pochissime osservazioni erano state condotte su animali considerati così bassi nella scala naturale. I suoi esperimenti, semplici ma geniali, rivelarono comportamenti sorprendentemente complessi. Per esempio, offrendo ai lombrichi foglie di forme diverse, osservò che le trascinavano nella tana quasi sempre dal lato più adatto. Quindi su 227 foglie secche, circa l'80% furono tirate giù dalla punta. Tale comportamento suggeriva una scelta funzionale, basata sull'avere acquisito una nozione generale della forma dell'oggetto, più che un riflesso puramente istintivo. Scoprì inoltre che, pur essendo completamente sordi ai suoni trasmessi dall'aria, non reagendo né alle note acute di un fischietto né a quelle profonde di un contrabbasso e neppure quando Emma suonava il pianoforte, rispondevano invece immediatamente alle vibrazioni trasmesse dal suolo, rintanandosi con estrema rapidità se il loro vaso veniva appoggiato su uno strumento vibrante. Pur privi di occhi, erano anche in grado di distinguere la luce dall'oscurità e di ritirarsi istantaneamente se esposti a una luce intensa. Un atto che per Darwin non era un semplice riflesso, ma implicava una forma di attenzione. In collaborazione con il figlio Francis, verificò poi che erano in grado di distinguere diversi tipi di cibo grazie al gusto, preferendo ad esempio foglie di sedano e di ciliegio selvatico ad altre varietà, pur mostrando quasi indifferenza verso odori non naturali come tabacco o profumo. Darwin osservò inoltre che prima di nutrirsi, i lombrichi inumidivano le foglie con un liquido alcalino, simile alle secrezioni pancreatiche, realizzando una sorta di digestione extrastomacale. Per Darwin tutto ciò indicava che anche gli animali più semplici potevano possedere forme elementari di sensibilità e di ragionamento, paragonando la loro capacità di giudizio a quella che un uomo mostrerebbe se posto nelle stesse circostanze. Concludeva che non vi fossero molti altri animali che avessero avuto una parte tanto importante nella storia del mondo. Darwin, i lombrichi e lo scetticismo vittoriano. Non tutti presero sul serio il lavoro di Darwin sui lombrichi. Nell'Inghilterra vittoriana, dedicare 40 anni di ricerca a creature ritenute umili e quasi insignificanti apparve a molti una bizzarria. La stampa evidenziò più volte come mancasse qualsiasi elemento di grandezza in un progetto del genere. I diversi critici trovavano assurdo che esseri tanto deboli potessero svolgere un'opera immensa. Nel 1881 Punch dedicò a Darwin una delle sue Fancy Portraits, raffigurandolo come un vecchietto dall'aria pensosa seduto in un giardino con un lombrico gigantesco a forma di punto interrogativo. Accanto a lui un libro intitolato Life of Worms. La didascalia scherzava sul fatto che dopo aver abbassato la specie umana a un quadrupede peloso nel Descent of Man, Darwin si fosse ora rivolto alla sua ultima mania, i vermi. Eppure ciò che allora faceva sorridere si sarebbe rivelato un'intuizione fondamentale. Quei lombrichi tanto derisi per lungo tempo negletti dai naturalisti erano in realtà ingegneri silenziosi del paesaggio, capaci di trasformare il suolo e di creare lo strato fertile di terra vegetale sotto i nostri piedi. I lombrichi, geologi silenziosi. Allora il cuore del libro sui lombrichi di Darwin è la dimostrazione del loro ruolo geologico. L'intero strato superficiale di suolo, il vegetable mould, cioè il terriccio fertile, passa periodicamente attraverso i loro corpi, venendo così trasformato e anche arricchito. Calcolò che in un anno oltre 10 tonnellate di terra secca per ettaro vengono smosse dai lombrichi. Un vero e proprio aratro naturale. Anno dopo anno, questi piccoli ingegneri del suolo seppelliscono oggetti, mescolano le particelle e diffondono nutrienti, contribuendo alla formazione del suolo e perfino alla protezione di reperti archeologici sotto la superficie. Nella conclusione del suo libro, Darwin inserisce una frase che va dritta al cuore. Si può mettere in dubbio se vi siano molti altri animali i quali abbiano avuto una parte tanto importante nella storia del mondo quanto quella avuta da questi esseri dell'organismo tanto basso? Oggi sappiamo quindi che i lombrichi sono fondamentali per la fertilità del suolo, il riciclo dei nutrienti e la salute degli ecosistemi, e anche per la produzione mondiale di legumi e di cereali. Visitando Down House è ancora possibile vedere la celebre Worm Stone e grazie a iniziative come il Worm Weekend, l'eredità della passione di Darwin per i lombrichi e delle sue osservazioni continua a vivere proprio nel luogo in cui condusse molte dei suoi esperimenti sul campo. Questo era l'articolo Gli umili eroi della Terra, Darwin nel mondo segreto dei lombrichi, pubblicato il 28 ottobre da Chiara Ceci sul blog Picaia. Quindi questa era la vita dei lombrichi, madonna, che affascinume. A me queste cose mi fogano, non sono direttamente proprio super direttamente collegate con le piante, ma come potete capire, chiaramente se si capisce come si forma il suolo, si capisce anche come fanno a vivere le piante sulla terra, perché si nutrono di quello alla fine, cioè tutti gli elementi, tutto il cibo proprio materiale che trovano e che processano lo prendono dal suolo, quindi anche dall'atmosfera, ma insomma dal suolo anche in grossa parte. E quindi è chiaramente qualcosa di fondamentale, decisamente fondamentale, quindi super affascinante mi era sembrato il fatto che già un secolo fa c'era un genietto che si fogava a studiare sta roba. Allora, la puntata di oggi è arrivata al suo termine. Come avete notato, spesso ultimamente faccio puntatine, cioè non spesso, ma insomma capita, ecco, di fare puntatine un po' più corte, ma ci va anche bene così. Quindi direi che con Nervature per oggi è tutto. A me, Addu, mi risentite settimana prossima, anche se sicuramente non sarò in diretta, sarò registrata. Comunque mi sentite e poi, come vi annunciavo in apertura di puntata, ci sarà successivamente una piccola pausa natalizia, quindi per 3 settimane o 4, forse ancora non so, non mi sentirete. Sentirete sicuramente tantissimo la mia mancanza, proprio terribilmente, però ce ne facciamo una ragione e in ogni caso sono fiduciosa che poi quando riparto da dopo Natale, quindi a quel punto anno nuovo, ci saranno un sacco di novità e un sacco di cose bellissime qui su Nervature. Io vi saluto con un ultimo pezzo, e questa è Queen Latifah, Just Another Day, e con questo vi saluto nel senso che vi do proprio buon Natale se lo volete, buon anno sicuramente, buon tutto. Ci risentiamo perché appunto settimana prossima non sarò in diretta, quindi ci risentiremo tra un mesetto. Buona serata a tutte e tutti, rimanete connessi su Radio Wombat a seguire anche la trasmissione successiva. Ciao! Good. I'm with whatever comes my way. Hip hop parade, Latifah's on vacation. I'm just plain old day in the day. I strap up, step out in every direction. Glock tech, Jimmy hats in case I need protection. So I land, cruise, pump sounds, play out wannabes. A kid in the M3's getting jacked right in front of them. So I play the tech close, my fingers on the trigger. Don't wanna get wet, so they steps, cause mine's are slightly bigger. But better yet, I'm a threat, so you better walk. Or get sketched out in chalk, cause I don't wanna talk. I stay true blue, I'm hoping. I got the fever for the flavor of a boo-boo. So it's back to the block, time to play. It's just another day around the way. In front of the name Latifah, I come with the real life perspective and rule. it's okay. It's gonna be okay.